Le strade della comunicazione. Il marketing oggi vuol dire soprattutto essere presenti nella mente del consumatore con il proprio brand e garantire spazio ai propri prodotti nelle reti di vendita. I professionisti del settore devono conoscere il mercato, ma anche la distribuzione, adeguandosi ai cambiamenti. Ecco la professione di cui parliamo oggi. Direttore vendite. Si occupa dell'organizzazione, dell'efficienza e dello sviluppo delle attività di vendita, ma anche del raggiungimento degli obiettivi di fatturato e profitto. Con la direzione aziendale costruisce le strategie commerciali, con un occhio agli eventuali cambiamenti del sistema distributivo. Percorso accademico. Corso di laurea magistrale in marketing, consumi e comunicazione dell'Università Yulm. www.yulm.it.